Cane pazzi no, pazzi e strafatti. Cani pazzi no, cani pazzi no, cani pazzi no, pazzi e strafatti. Cani pazzi no, pazzi assieme, siamo tutti matti. No sì, no sì. Siete sempre uguali chili di noia, adesso è troppo uguali chili di nullismo. Apro cresceline e timide carezze, ora avvelenate chili di moda. Ripit, ripit, ripit, ripit. Sentire che sei qui, passione fluida. Ho bisogno di esternare senza vergogna, passione e forza. Vite sempre uguale chili di insonnia, testa troppo uguale chili di concorrenza. Cielo del mattino timide carezze, sogni sotterrati. Ho bisogno di urlare parole più vitali. Ho bisogno di amare e senza vergogna, con calore e forza. Cani pazzi no, cani pazzi no, cani pazzi no, pazzi e strafatti. Cani pazzi no, pazzi e sì, noi siamo tutti matti. Io sì. Basta illuderci, basta empatia, basta empatia, basta illuderci. Siete sempre uguali chili di noia, testa troppo uguali chili di nullismo. Acqua cristallina di mite carezze, ora avvelenate chili di moda. Ripet, ripet. Basta arrenderci, basta illuderci.